in primo piano. Buongiorno da Gianfranco Fabi. Questa volta a leggere i giornali insieme a voi, Alessandro Milan tornerà lunedì. Leggiamo un po' le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ci sono molti argomenti: l'economia, la politica, la società. L'economia in primo piano con le parole di Napolitano, il Presidente della Repubblica, ieri a Venezia, a Mestre, ha parlato della necessità di una politica industriale, ed è il titolo del Sole 24 Ore. Serve una seria politica industriale. Nuova appello di Napolitano al governo sull'emergenza economica. Il Tesoro studia le linee guida su infrastrutture e sud. La Banca Centrale Europea alza le stime del prodotto interno lordo per l'eurozona, quadro più positivo del previsto. Quindi l'economia in primo piano anche su Repubblica. Il capo dello Stato: servono un ministro e una seria strategia industriale. Bossi: federalismo in cassaforte, niente voto. Economia è il titolo grande di Repubblica. Napolitano accusa. Gelo tra Colle e Alfano. Bersani: il berlusconismo riduce la politica a una fogna. Questo è il tema economico sui due giornali, La Repubblica e Il Sole 24 Ore come titolo principale, mentre il Corriere della Sera sceglie la cronaca dagli Stati Uniti. Esplode un'altra piattaforma, torna la paura dell'onda nera. Dopo il disastro ecologico della BP, un'altra piattaforma petrolifera esplosa nel Golfo del Messico, salvi i 13 dipendenti. Uno di loro è rimasto ferito. In mare è stata avvistata una chiazza oleosa lunga un miglio, e negli Stati Uniti è tornata la paura dell'onda nera. In rilievo sul Corriere della Sera anche i negoziati tra israeliani e palestinesi. In Medio Oriente pace possibile entro un anno. La vicenda iraniana con la condanna e la possibile condanna a morte di Sakineh è messa con una grande foto sul Corriere della Sera e un articolo di Bernard-Henri Lévy: Europa, battiti per una madre. Hanno torturato mia madre, Sakineh. L'Europa deve battersi per lei. Intervista il figlio della donna che in Iran è stata condannata alla lapidazione per adulterio. Non bisogna dare tregua a Teheran. Dal Corriere della Sera, se avremo tempo, poi magari ne leggeremo un piccolo stralcio, un interessante articolo di Luigi Maria Verzei, fondatore del San Raffaele, che in un articolo scrive che cosa farebbe se diventasse Papa, e questo sacerdote, non dimentichiamolo, dà alcune indicazioni anche un po' non tanto ortodosse rispetto a quanto avviene all'interno della Chiesa. Lo vedremo magari più avanti. Anche La Stampa ha una grande fotografia sul disastro del Golfo, sul nuovo disastro del Golfo del Messico. Brucia un'altra piattaforma, ma La Stampa apre con un altro tema che svilupperemo più avanti, quello della scuola. Gelmini: i precari sono troppi, non posso assumerli. Strumentalizzati dalla politica. Il ministro dell'istruzione, scrive La Stampa, presenta l'anno scolastico alle porte. Impossibile per qualsiasi governo assorbire 200.000 precari. I docenti in Italia sono 700.000 e sono più che sufficienti. E sui precari che continuano a protestare in tutta Italia non li incontro, sono strumentalizzati per fini politici. Io dialogo soltanto su temi concreti. Poi annuncia chi sarà assente più di 50 giorni sarà bocciato e fornisce altre cifre. Il tempo pieno è aumentato e gli scatti di anzianità per i docenti non sono bloccati, a differenza degli altri comparti del pubblico impiego, proprio per la specificità del ruolo degli insegnanti. Scelte analoghe sono quelle di altri giornali. Il secolo decimonono, precari rassegnatevi, Gelmini impossibile assumerne 200.000, protesta strumentalizzata anche sul Giornale di Genova. In rilievo l'intervento di Napolitano: in pressing su Berlusconi, il presidente si scoprì interventista. Il giornale e Libero continuano la loro campagna contro Fini. E Libero intitola: Fini impose l'uomo del boss. Ricordate Di Girolamo, l'ex senatore arrestato per 'ndrangheta. Davanti al magistrato la Fignana Contini rivela che la candidatura fu voluta direttamente da Gianfranco, che per primo lo chiamò dopo l'elezione. L'articolo è è di Franco Bechis. Libero mette in rilievo anche un'anticipazione di Panorama, che proprio ha una copertina sugli eroi bugiardi. C'è un articolo di Nino Sunseri che parla delle bugie dei tre licenziati Fiat, appunto ricostruendo la vicenda che ha portato al processo, prima al licenziamento, poi al processo e alla decisione di reintegro da parte del tribunale dei tre operai di Melfi, su cui si è discusso molto negli ultimi giorni. Il Riformista invece ha una grande fotografia di Napolitano, perché il presidente sta alzando i toni, un nuovo Napolitano, l'arma del sarcasmo, serve un ministro dell'industria, passerò la voce, il capo dello Stato richiama il governo sull'economia. Il Manifesto invece ha una fotografia della manifestazione di Roma contro la Gelmini, mal tagliati, non vuole incontrare i precari in sciopero della fame e riaccusa di spettacolarizzare il disagio. Il ministro Gelmini rivendica i tagli alla scuola e maltratta gli insegnanti, pretendono di avere il posto di lavoro, ma la protesta non si ferma, lottiamo per la qualità dell'istruzione, dicono i precari. Il Foglio non ha ovviamente come tradizione titoli di grande forza, l'apertura è sulla, cioè il colonnino è sui negoziati di pace in Medio Oriente, Obama ai negoziati sceglie di puntare su basse aspettative e c'è una intervista ad Abrams, Elliot Abrams, uno dei consiglieri più ascoltati del presidente Bush, che ci spiega sul Foglio perché la pace non nascerà intorno a un tavolo. Dopo le prime pagine che concludiamo con il Messaggero che apre con Napolitano, l'Italia cresce poco, al paese serve un centro di responsabilità per lo sviluppo. Ci sentiamo tra poco dopo il meteo per approfondire alcuni temi. Bentornati in primo piano alla lettura dei giornali di oggi. Allora, dopo aver visto le prime pagine, diamo un'occhiata approfondendo i temi, soprattutto quello dell'economia. L'economia è stata rimessa appunto in luce ieri dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che parlando a Mestre ha sottolineato l'esigenza di mettere l'economia come priorità dell'azione del governo e tra l'altro ha ricordato come sia necessario nominare un ministro per lo sviluppo economico. Sono esattamente 4 mesi dal 4 maggio il giorno in cui si dimise Claudio Scajola che manca un ministro dell'economia e che Berlusconi non riesce a trovare, si direbbe Bossi, la quadra per nominare qualcuno al posto di qualcun altro. I commenti su questa, sia sull'intervento di Napolitano sia sulla necessità di varare una diversa politica economica, sono numerosi. Partirei da quello del secolo XIX, Michele Anselmi, il presidente si scoprì interventista e Anselmi traccia un po' un quadro sulla figura del presidente. Al ritorno delle vacanze, dopo essersi sentito tirato per la giacchetta in più di un'occasione, aver ribattuto per iscritto colpo su colpo a qualche sgarbo proveniente dal centrodestra, Napolitano ha inaugurato uno stile più friendly, informale, a suo modo sorprendente. Chissà che ne direbbe Fiorello, si chiede Michele Anselmi sul secolo XIX. L'unico che si sia divertito finora a sfotterlo affettuosamente, imitandone la calata partenopea alla radio. Del resto Napolitano è uomo di vasti interessi culturali, parla bene le lingue, sa muoversi con eleganza nei contesti internazionali e conserva un ottimo rapporto con il mondo delle arti, specialmente del cinema, che infatti lo ripaga calorosamente durante gli incontri al Quirinale. Chi lo conosce ne parla anche come di un uomo incline nel privato alle battute di spirito, a una certa leggerezza, british solo in apparenza. Magari nell'inglese garbugliarsi del linguaggio politico, conclude Michele Anselmi sul secolo XIX, mentre tutti disegnano scenari politici senza fare i conti con l'oste, eppure l'impeccabile Gianni Letta si becca la sua posizione di fischi a Venezia, Napolitano deve aver pensato che non ci sia niente di male a sdrammatizzare un po' la situazione, ricorrendo a qualche battuta, salvo poi rientrare subito nei ranghi per non farsi coinvolgere in trattative giudicate improprie. Perché parla il presidente? È il commento di Nadia Urbinati su La Repubblica, che lo ricordo, ha un titolo appunto principale, Economia Napolitano accusa. E Nadia Urbinati scrive: le discrete, a tratti piacevolmente ironiche, esternazioni del presidente sono benvenute e opportune. Non dovrebbero essere necessarie, non ce ne dovrebbe essere bisogno, perché un governo serio e davvero governo del e per il paese dovrebbe comprendere senza fatica che queste sono questioni maledettamente serie. Come non comprendere che è urgente nominare il ministro dello sviluppo economico? Non è giustificabile che un governo democratico si impegni anima e corpo su decreti e proposte di legge che servono direttamente, prima di tutto, gli interessi del suo leader, mentre trascuri sistematicamente di fare quello per cui ha giurato, rispettare la Costituzione italiana e quindi fare prima e soprattutto gli interessi della società italiana. E Nadia Urbinati su La Repubblica, che conclude il suo articolo di commento. Rileggiamo le parole di Napolitano sulla questione dell'occupazione giovanile. La sua analisi socio-economica della nuova categoria di giovani che non sono impegnati né in processi formativi né lavorativi né in processi di addestramento al lavoro. Abbiamo giovani che non solo non hanno lavoro, ma non sono preparati a fare nessun lavoro. La questione è economica e di formazione, ma anche psicologica ed etica. Giovani fatalisti, perché sanno di non avere un futuro, sanno che gli sforzi che fanno sono o possono essere inutili perché il sistema economico è bloccato, oppure le carriere compromesse da clientelismi. In modi discreti, ma puntuali, il Presidente della Repubblica ha ricordato al governo che deve mettere in moto la sua tanto sbandierata politica del fare, fare per tutti. Era Nadia Urbinati nel suo commento su La Repubblica, un commento ovviamente dato il giornale in cui è stato pubblicato, lievemente, ma lievemente tra virgolette, critico verso il governo. Chi invece non è critico verso il governo, commentando le parole di Napolitano, è Francesco Forte sul giornale, il giornale che, come ricordavo, ha un solito, direi, delle ultime settimane attacco a Fini. Tra parentesi c'è anche una breve lettera di Vittorio Feltri: caro presidente Fini, da tempo lei chiede con insistenza anche in pubblico la mia testa, mettiamo che gliela offra spontaneamente, cosa ne farebbe se non usa nemmeno la sua? Firmato Vittorio Feltri. E torniamo al giornale. La politica industriale, eccola. Napolitano suggerisce ancora al governo di concentrare la sua azione per rilanciare l'economia, ma molto è già stato fatto e la linea è chiara: nessuna interferenza sui contratti di lavoro, riduzione delle imposte e ricorso ai privati per le infrastrutture. E questo il sommario dell'articolo di Francesco Forte, che appunto dice che il governo sta già facendo la sua parte. Quale sarebbe questa parte? I punti del il governo Berlusconi: la riduzione dell'IRAP sino alla sua eliminazione, la spesa per infrastrutture anche con ricorso a capitale privato, le riduzioni fiscali per nuove imprese del sud e la detassazione dei redditi di lavoro legati alla produttività. E ciò si collega al patto sociale di Marchionne, che comporta per il pieno utilizzo degli impianti lavoro notturno, aumento delle ore di straordinario, controllo delle assenze e degli scioperi ingiustificati, premi di produzione in cambio di un grosso investimento in nuovi impianti che garantisce l'occupazione. In questo patto non c'è posto per la pretesa dei sindacalisti di controllare le linee di produzione. Nell'azienda, sul lavoro, comando del capofabbrica e il caporiparto. Il sindacalista vigila perché gli accordi che ha concluso con la controparte siano rispettati e lo fa senza interferire nel lavoro. E questo era Francesco Forte, che poi ricorda anche un aneddoto, una frase di Luigi Einaudi, che appunto in un articolo sul Mondo di Pannunzio scrive di un incontro tra i coltivatori del luogo di Doriani in provincia di Cuneo, dove Luigi Einaudi era appunto originario, e delle richieste di questi coltivatori al governo. E le loro richieste erano: fateci pagare poche imposte, rifateci la strada, al resto pensiamo noi. Non c'era la CGIL di Epifani con la Fion di Landini, a parte ciò la risposta è valida per la politica industriale attuale, ricorda Francesco Forte. Quindi infrastrutture e il resto a trattative tra le parti. Il Riformista parla di un nuovo Napolitano, l'arma del sarcasmo, serve un ministro dell'industria, passerò la voce, quanto ha detto appunto Napolitano ieri a Mestre. E Peppino Caldarola sul Riformista scrive che cosa spinge costringe il capo dello Stato a un linguaggio così inusuale e a interventi così frequenti. Sicuramente non è mutato l'asse culturale e politico della presidenza. Se si scorgono i discorsi di Napolitano, si avverte in ognuno di essi la preoccupazione per un continuo degradarsi della contesa politica che può danneggiare il paese. Ha chiesto alle forze politiche di dialogare, ma ha collocato il dialogo nel quadro di un'esplicita volontà riformatrice. Nessun invito all'appeasement tra i diversi schieramenti, ma soprattutto l'invito a lavorare per il bene del paese. Ha detto quest'anno all'Accademia dei Lincei: spero che ci si risparmi il banale fraintendimento del vedere sempre in agguato l'intento di un appello all'abbraccio impossibile, alla cessazione del dialogo fisiologico in ogni democrazia tra istanze politiche e sociali divergenti. E conclude Peppino Caldarola il suo editoriale sul Riformista. L'invito a mettere al centro i grandi temi dell'economia e del lavoro guardano ai rischi che l'Italia corre. Tuttavia, lo sbandamento politico istituzionale ha reso necessaria una più severa presa di posizione del capo dello Stato. Di qui la scelta di un nuovo stile, di parole più dirette, di un dialogo più serrato con la pubblica opinione. Attorno al Quirinale si è addensato un capitale di fiducia e di popolarità che va messo a frutto. I richiami del Colle, conclude Peppino Caldarola sul Riformista, hanno l'obiettivo di far rientrare lo scontro nell'alveo istituzionale. Napolitano sta in queste settimane parlando a un paese smarrito e questa volta non vuole che le sue parole siano messaggi in bottiglia senza la certezza che vengano raccolti. Questo era Peppino Caldarola sul Riformista, ma possiamo ricordare che non è la prima volta che Napolitano, magari in forma indiretta, sollecita la nomina del ministro dello sviluppo economico, ma anche come altre volte, anche questa volta per ora non si vedono i segni di una soluzione. Tutti aspettano domenica cosa dirà Fini, che quale sarà quale sarà il futuro di questa coalizione di governo appesa appunto ai contrasti tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera. Sul Sole 24 Ore: serve una seria politica industriale, sono le parole di Napolitano. Se il paese non sa vedere il futuro, è il commento di Orazio Carabini sulla prima pagina del Sole 24 Ore. C'è bisogno di protagonisti, uno dei quali dovrebbe essere il futuro ministro dello sviluppo economico, e per questo Napolitano, scrive Carabini sul Sole 24 Ore, fa bene a insistere sull'urgenza della nomina. È dagli uffici di Via Veneto che si può mettere in moto il processo. Quale esempio? Il piano per il nucleare. Si può essere d'accordo o no sui rischi per la sicurezza, ma la costruzione delle centrali rientra tra i nostri progetti strategici. Non prevede l'impiego di fondi pubblici, eppure tutti gli adempimenti previsti per la realizzazione del piano, dall'insediamento dell'agenzia all'individuazione dei siti, sono in ritardo di un anno. Enel e EDF hanno fatto la loro parte, il governo no. Un altro esempio è la diffusione della banda larga con rete di cavi a fibra ottica. Si procede in ordine sparso. Si procede con le imprese del settore divise tra loro e il governo assente. Eppure sarebbe possibile sfidare il mondo e candidarsi una volta tanto a essere all'avanguardia con una rete super veloce. E conclude Orazio Carabini sul Sole 24 Ore: le medie imprese esportatrici hanno saputo reagire, ma non riusciranno da sole a ridare all'economia lo slancio che serve per dare un lavoro a chi non lo ha. Servono mercati ben regolati e vigilati, trasparenti e concorrenziali. Servono infrastrutture efficienti e una pubblica amministrazione non oppressiva, ma serve anche chi sappia guardare il futuro con il cannocchiale e non con le lenti da miope. Orazio Carabini sul Sole 24 Ore a commento delle parole di Napolitano sull'esigenza di nominare il nuovo ministro per lo sviluppo economico. Ci fermiamo qui, torniamo tra qualche istante dopo le notizie sul traffico. Eccoci qua per l'ultima parte di In Primo Piano. Guardando i giornali di oggi, abbiamo dato spazio nella prima parte ai temi economici. Vorrei sottolineare per concludere i temi economici un commento non firmato nella pagina appunto dei commenti del Sole 24 Ore che parla di Cesare Damiano, il coraggio del riformista. Cesare Damiano ha proposto, e leggiamo questo commento: affronta, sapendo ciò che fa, la fatica del riformismo fatto di dialogo costante, di matura delle posizioni, di opera di convincimento paziente, di persuasione, con l'idea di fondo che gli interlocutori siano tutti in buona fede. Ha detto chiaramente che la proposta di Sergio Marchionne di negoziare nuove flessibilità in azienda è percorribile e va approfondita senza ideologismi e pregiudiziali. Così come è percorribile la proposta di cercare un nuovo patto sociale per definire le nuove priorità del paese, gli indirizzi strategici per l'industria e lo stato sociale. Damiano è stato il leader dei riformisti della FIOM e da tempo predica la filosofia del dialogo paziente paziente e metodico. L'ha applicata da ministro quando ha raggiunto un importante accordo interconfederale sui temi della previdenza e dell'occupazione, con il concorso di tutti i sindacati, certo mai teneri verso i loro ex collega. Damiano ha tracciato un percorso e riproposto un metodo. Ieri Susanna Camusso sembra averlo condiviso. Coraggio, chiama coraggio e magari porta anche riforme. Questo era il commento del Sole 24 Ore all'intervento di Cesare Damiano, ricordiamo che era stato ministro del lavoro nel governo Prodi, quindi un uomo di sinistra, già anche sindacalista, che ha aperto la strada all'accettazione di una maggiore flessibilità e di un dialogo tra le parti sociali sul tema del lavoro, sul tema dell'organizzazione del lavoro in fabbrica. Il tema del rapporto tra le parti sociali su un altro fronte, quello della scuola, è uno degli altri grandi temi dei giornali di oggi. Per ieri c'è stato un intervento del ministro dell'istruzione Gelmini che ha in pratica detto che 200.000 precari sono troppi, che bisogna riformare sostanzialmente la scuola. Ecco, su questo fronte sono molti i commenti sui giornali. Direi quasi tutti con una da una parte sottolineo l'esigenza di una riforma di una scuola che deve essere più efficiente, che deve essere più capace di offrire ai giovani delle prospettive sicure soprattutto sul mondo del lavoro, ma dall'altra criticano un po' questa politica degli annunci e della ricerca un po' dello scontro. È quello che fa Luigi La Spina sulla Stampa, le strategie dei politici, scrive La Spina nel suo editoriale sulla Stampa, come quelle degli amministratori delle aziende dovrebbe essere un paragone che non dovrebbe dispiacere al ministro Gelmini, e quindi le strategie dei politici si giudicano non dalle intenzioni ma dai risultati, soprattutto dal confronto, non dal modo come dovrebbe essere ma da quello che realmente esiste. Nell'attuale situazione della scuola italiana, scrive Luigi La Spina sulla Stampa, il rischio della sua strategia è evidente: l'esasperazione quasi provocatoria delle diagnosi e delle terapie sui mali dell'istruzione pubblica, in molti casi fondate, potrebbero portare a tali reazioni da suscitare effetti opposti a quelli che si vorrebbero suscitare. La Gelmini si potrebbe trovare davanti a un vero muro di gomma, fatto di pervicace boicottaggio e di resistenza passiva da parte di chi dovrebbe attuare quelle direttive, tale da vanificare qualsiasi volontà riformatrice. Il sistema della scuola italiana è molto più complicato di quanto la Gelmini faccia finta di credere, ed è difficile che si possa smuovere senza la collaborazione e il consenso della grande maggioranza di coloro che ne fanno parte. Era Luigi La Spina nel suo editoriale sulla Stampa. E forse c'è un'altra strada, lo scrive Michele Boldrin della Washington University sul Fatto Quotidiano. La nuova sceneggiata è servita, scrive Boldrin, dal lato i precari della scuola che fanno lo sciopero della fame e un sindacato che vuole solo mantenere lo status quo, dall'altro un ministro che si vanta dei propri tagli senza capire, i suoi consiglieri non gliel'hanno evidentemente spiegato, che il problema è come è organizzata e gestita la scuola italiana. In mezzo i media che, anziché documentare le colpe di una parte e dell'altra, alimentano la polemica. Ulteriore fotografia, se ce ne fosse bisogno, di una classe dirigente uniformemente inetta. È chiaro a chiunque non abbia fette di salame ideologico sugli occhi, scrive Michele Boldrin sul Riformista, che l'ennesima apertura caotica dell'anno scolastico è il frutto di scelte miopi e accomodanti di questo governo e di molti che l'hanno preceduto, oltre che di politiche sociali improntate al più bieco corporativismo e alla massimizzazione della spesa invece che alla sua efficienza e produttività. Così come è chiaro, purché alla Gelmini e a Tremonti, che la soluzione non consiste in miopi tagli orizzontali, ed è chiaro, purché ai sindacati, anche che non è spendere di più e impedire i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Eppure, se l'obiettivo fosse far funzionare meglio la scuola italiana, il problema si potrebbe risolvere. Ecco gli ingredienti in ordine sparso, suggerisce Michele Boldrin: decentralizzare per davvero le decisioni di assunzione e impiego del personale, lasciando completa autonomia contrattuale ai provveditorati. Trasformare ogni scuola in una cooperativa di insegnanti a cui lo Stato dà in concessione a tempo indeterminato le strutture fisiche. Chi assumere e a che condizioni, chi promuovere, premiare o licenziare, lo decide la cooperativa, o meglio il provveditore, e che il migliore, se vuole, vende i propri servizi a un prezzo regolato maggiore. Gli insegnanti di qualità costano come i luminari della medicina. È una rivoluzione questa che propone Michele Boldrin sul Riformista. E i soldi? Buoni scuola, uguali per tutti gli studenti, finanziati con le imposte e spendibili nella scuola di propria scelta. Ciò che conta è il finanziamento pubblico dell'istruzione, fatto di progresso economico e eguaglianza sociale, non la sua gestione diretta, che come l'esperienza diretta dimostra porta spesso a inefficienze e assurdità. E i programmi e la qualità dell'insegnamento? Ci pensa il Ministero. Programmi minimi e uniformi a livello nazionale con aggiunte volontarie locali e qualità dell'insegnamento testata con esami nazionali. A questo si dovrebbe dedicare il Ministro, che con questa riforma federalista si svuoterebbe di migliaia di inutili funzionari, liberando risorse per chi l'insegnamento lo produce davvero, ovvero gli insegnanti, capaci e volenterosi, in collaborazione con alunni e famiglie. È questa l'altra strada suggerita dal Fatto Quotidiano, una strada che dovrebbe portare a una maggiore libertà della scuola, a una maggiore efficienza e non tanto a una struttura burocratica. Una strada, dicevo, forse un po' rivoluzionaria e forse anche un po' utopistica, anche se, secondo me, va nella direzione giusta. Le orme dei giovani sulla strada della scuola è un promemoria per gli addetti ai lavori, scritto da Davide Rondoni su Avvenire. In questo inizio, chi userà della scuola per terreno di scontri, di difese, di rendite di posizione, di consenso politico e altre piccinerie, vorrei che fosse condannato ad andare davanti al plotone di esecuzione. Un plotone immenso, composto dai nostri bambini e ragazzi, che lo fissassero al muro, ministro o sindacalista, docente o amministrativo che sia, e continua Davide Rondoni su Avvenire, e con le armi della loro infanzia e giovinezza eseguissero la condanna. Pistole ad acqua, elastici, schioppi di legno, mitragliette con i suoni elettronici di ultima generazione, qualche pernacchietta e altri razzi e battute. Sono sicuro che a fare le cose come si deve, il plotone con i cappellini colorati, gli zaini, il chewing gum e tutto il resto sarebbe schierato dalla mattina alla sera, perché ci sono un sacco di furbastri che campano sulla e nella scuola, e però dei ragazzi gli interessa assai meno del giusto. Ma non c'è reato più grave oggi in Italia che trattare male la scuola, che usarla per altro motivo che non sia servire i nostri cerbiatti. Lo chiamo reato, scrive Davide Rondoni su Avvenire. Lo chiamo reato perché fa quasi più effetto in quest'era giudiziaria, ma si dovrebbe chiamare offesa. Si dovrebbe chiamare ingiustizia, peccato, ignominia, tanto è la gravità. Guai a chi per vanacloria o per protesta ho dovuto onore a questi piccoli nostri figli. Anche là, dove le condizioni non sono buone, non si esacerbi il tutto, ma si faccia in modo che i bambini e i ragazzi non patiscano maggiore disagio. Non si guardi ad altri interessi, non si sfrutti il loro nome per pretese e richieste, per quanto comprensibili. Non si faccia carriera sulla loro pelle. L'inizio della scuola è un'occasione per guardarci allo specchio e dirci: stiamo servendo al meglio i nostri cerbiatti, i nostri figli, o meritiamo lo strambo all'ego e però terribile protone d'esecuzione dei loro sguardi, che ci mettono al muro della nostra responsabilità. Vale per il ministro e per ogni adulto che ha funzione nella scuola. Davide Rondoni di Avvenire, un richiamo che tuttavia vale un po' per tutti. L'attenzione verso la scuola dovrebbe essere un'attenzione complessiva, un'attenzione che non si ferma alle polemiche politiche, ma che guarda appunto alla struttura, ma che affronta ogni giorno, offre le condizioni ogni giorno alle persone perché possano nella scuola, i giovani, perché possono nella scuola trovare una prospettiva, soprattutto una prospettiva di futuro e di cultura. Un paio di segnalazioni prima di concludere. Dicevo, Panorama ha in copertina gli eroi sbagliati, l'Espresso invece parla di Giulio Tremonti, Giulio, una copertina dedicata alla figura del ministro dell'economia, un ministro dell'economia che viene appunto tratteggiato poi all'interno come un qualcosa che si oppone a Berlusconi molto velatamente, con un obiettivo che è quello di arrivare al Quirinale. Un programma di governo, dice l'Espresso, Berlusconi si impunta sui 5 punti per farlo votare i belli e Fignani, e il ministro dell'economia ne indica invece 8: scuola, energia, crescita, lavoro, tutti diversi da quelli del premier. La giustizia, che sta tanto al cuore al Cavaliere, non viene neppure nominata. Sulla Repubblica vi segnalo un articolo di Giuliano Ferrari Ferrara sulla giustizia. Giuliano Ferrara sottolinea come sia importante il processo breve. Non c'è tempo per parlare, come avrei voluto, dell'articolo di Don Verzé, se fossi Papa andrei in Africa. Vi ringrazio per la vostra attenzione, l'appuntamento con Alessandro Milan e a lunedì.